626. Amaretti prima maniera. Zucchero bianco in polvere grammi 250, mandorle dolci grammi 100, mandorle amare grammi 50, chiare d'uovo numero 2, le mandorle spellatele e seccatele al sole o al fuoco. Poi tritatele finissime con la lunetta. Lavoratele col mestolo, lo zucchero e le chiare per mezz'ora almeno e aggiungete le mandorle per formarne una pasta soda in modo da farne delle pallottole grosse quanto una piccola noce. Se riuscisse troppo morbida, aggiungete altro zucchero e se troppo dura, un'altra po' di chiara, questa volta montata. Se vi piacesse dare agli amaretti un colore tendente al bruno, mescolate nel composto un po' di zucchero bruciato. Via via che formate le dette pallottole, che schiaccerete alla grossezza di un centimetro, ponetele sopra le ostie o sopra pezzetti di carta, oppure in una teglia unta col burro e spolverizzata di metà farina e metà zucchero a velo. Ma a una discreta distanza l'una dall'altra, perché si allargano molto e gonfiano, restando vuote all'interno. Cuocetele in forno a moderato calore.